un testo che stimola. La chiave di lettura sta nell'affermazione: sono venuto a dare compimento alla legge. E qui ci si rifà a tutto l'Antico Testamento, perché il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè e di Gesù Cristo è Lui che aspetta questo compimento, è Lui che manda questa luce. Inoltre Gesù sfida gli scribi e i farisei, quelli della perfezione, quelli legali, quelli che di facciata è legali. Ci sono tre interpretazioni dettate in questa parte del discorso che riguardano i comandamenti. Comandamenti intesi non come descrizione minuziosa, fai questo, fai quest'altro, se no la mia libertà, addio, se no la mia adesione, la mia fiducia, addio. No? Il compimento è il segno di una prospettiva che io ho davanti. Allora, io riassumerei in una frase che è scritta anche nel fascicolo, che tutte queste cose dette nel Vangelo che abbiamo udito, più le parti che non abbiamo ancora udito, non fare questo, non uccidere, fu detto. Ma io vi dico che è il rispetto della persona nella sua totalità. Provo a mettere lì qualche osservazione su quelle parole genuine, così autenticamente umane, che anche la nostra sensibilità sa cogliere. Il non uccidere non è solo sopprimere la vita, ma la delicatezza dei rapporti tra le persone. Mi limito a dire, non so se condividete, che la ferita più atroce, anche se la parola atroce sembra così fuori posto, ma la ferita, l'offesa, è quando si toglie il saluto, è quando la relazione viene interrotta, quando la relazione tra le persone è, come dire, non per quello che mi ha fatto, ma per come mi ha considerato. Cioè quando il nostro io, quando la nostra persona viene buttata in parte. Questa è la ferita più atroce, è l'uccisione, se dico morale è un po' troppo sotto. È proprio il non riconoscermi che io sono, che io esisto, che io sono come te e così via. Sì, è vero che anche dal punto di vista della legge, del codice civile, ha fatto dei passi avanti su alcune cose. Ed è per questo che mi fa tristezza, insomma, non è che non ci dormo, però dico, mi fa tristezza nel constatare le piccinerie di questioni tra vicini, quando dico tra vicini non appena quelli del condominio o quelli del cortile, ma i rapporti tra le religioni. Io non so cosa sarà fra 30 anni, fra 40 anni, protestanti, cattolici, chissà che evoluzione, mi auguro, ci sarà. Se poi parlo le piccinerie dei protagonisti sociali e politici, chiudo subito la parentesi. A proposito del non desiderare la donna d'altri, è per dire il rispetto della donna e della dignità della persona. È un sentimento talmente umano da suscitare, è un po' rabbia, sì, quando è qualcun altro ad offendere noi stessi. Azzardo a dire, i sentimenti di affetto dentro il matrimonio, fuori dal matrimonio, hanno una dignità che azzarderei dire che è sacra. Cioè le persone non possono essere prese come pure desideri confusi con i loro corpi. Basta così. Le persone non possono essere prese come puri desideri confusi con i loro corpi. Non è questa la maturità delle persone. Poi ci possono essere tutte le nostre debolezze, tutte le nostre mancanze, tutte le nostre, e così via. Aggiungo una terza cosa. Non spergiurare, tutta una terminologia un po' particolare, il vostro parlare, il nostro parlare, sia sì, sì, no, no, è solare. Sì, ma però vediamo se... Diciamo tutti maestri, io sono tutto maestro in questo. Libera lo spirito degli imbrogli, libera lo spirito delle menzogne, fa sentire genuini, fa sentire freschi. Quindi è un invito alla verità, anche quando è faticosa, anche quando è costosa, quando è a caro prezzo. D'altra parte la verità ha una sua forza che alla fin fine si afferma. È il vivere a testa alta, senza paura, con il coraggio delle proprie idee, delle proprie convinzioni, con la forza di affermarle anche quando possono procurare dei guai, essere cancellati dagli elenchi. Chiudo. Il compimento della legge di cui il Signore Gesù ha portato non è menumazione di qualcosa o di qualcuno, ma la completezza di un orientamento della vita. un orientamento che di per sé è trasparente, perché la parola di Dio ce lo fa vedere. L'ardire di una vita con le conseguenti relazioni, che va oltre l'arrangiarsi dei furbi e dei deboli, e porta uno sguardo realistico sul mondo, sguardo che ha la forza della novità. Questo è l'atto di liberazione, questo è il compimento dei comandamenti. La forza della novità, una forza che porta a conseguenze sempre più mature e quindi, tanto per chiudere, molto vicini alla felicità. È un'aspirazione? Può essere. È un orientamento? Lo è. Poi la fatica ognuno se la paga, perché tutto è a caro prezzo quando si prende in mano la parola di Dio.